Sandro non è la prima volta, vero? Tu sei quasi un aficionado. Beh, sono venuto altre due o tre volte. Una di queste volte ti ho fatto un ritratto, no scusa, non un autoritratto, certo. L'avresti fatto tu, che hai conservato. Certo, ne ho due. Due? Tutti sì, fatti da me? Fatti da te, sì. Io me ne ricordo uno solo. Allora, non c'è due senza tre, il quattro viene da sé. No, no, questa sera è dedicata ad Antonella. Questa sera lo facciamo fare ad Antonella Cinelli, che sicuramente disegna molto meglio di me. Ma no. Beh, ha una mano fantastica e infatti siamo qua per parlare di lei, della sua opera, della mostra che è in corso in questo momento all'Assemblea Legislativa, giusto? Esatto. Ha inaugurato il 26 maggio. Che era un lunedì a mezzogiorno, vorrei specificare. 12:30. Sì, un orario un po' particolare. Un orario un po' particolare per inaugurare una mostra. Questa però è una caratteristica dell'Assemblea andati. Legislativa. Esatto, è un problema dell'Assemblea Legislativa. È un problema, però di lunedì è stato, insomma. Beh, generalmente lunedì, martedì, mercoledì sono i giorni che c'è. Sono i giorni di consiglio, per cui ci sono tutti i consiglieri, gli assessori. A proposito di consiglio, ti do il consiglio di spostare un po' indietro il tuo cellulare, perché ho paura che sia quello che fa un po' di rumore. Spostiamo tutti i cellulari, no, per cioè di solito non lo fa, però forse era il tuo, forse penso che fosse il suo, che in effetti era molto vicino al microfono, però vai tranquillo. Bene, perché raccontaci qualcosa, forse ci avrai già raccontato, ma tanto i nostri ascoltatori si dimenticano, non ci ascoltano. Infatti. Io per prima, l'Assemblea Legislativa, questo rapporto tra arte e politica. Ma, diciamo che è nato con la presidenza della Simonetta Saliera, per cui 10 anni fa, quando mi chiamò per curare una prima mostra di Mario Nanni, e da quella mostra lì poi è nata l'idea di creare una collezione dell'Assemblea Legislativa e proporre tutta una serie di mostre personali o collettive che avessero lo scopo di valorizzare gli artisti del territorio, ecco, gli artisti della regione Emilia Romagna. La cosa è proseguita con tutto il mandato della Simonetta Saliera, con quello della presidente successiva che è stata Imma Petitti, e adesso con il nuovo presidente Maurizio Fabri abbiamo iniziato una collaborazione. C'è stata la mostra di Stefano Pasquini, che sarei io, esatto, che i nostri ascoltatori conoscono di vista, piacere. E un'altra mostra dedicata alla Flavia Franceschini, e adesso c'è in corso questa mostra di Antonella Cinelli, che è una mostra che la regione non ha prodotto ma ospita, perché è una mostra prodotta dalla, lo dirà poi meglio Antonella com'è la storia, dall'ANPI provinciale di Bologna, ed è stata già presentata in comune a Bologna alla Manica Lunga. Antonella, dice il titolo di questa mostra, così togliamo la parola a Malossini, che sennò parla solo lui. Posso dire che dunque siamo passati dalla manica lunga alla manica corta. Che bella battuta. Non dovete ridere, per forza. No, vabbè, ma lo facciamo così. È la triste verità. Sai, io passerei al senza maglietta, però andrei oltre. Ah, ok. Troppo. Vabbè, andiamo. Non avrai mica caldo, Cinzia? No. E tu aspetta. Io ho scritto che Coxo Spaziale continuerà fino alla fine di luglio. Va benissimo. Va bene. Sì, va bene, okay. Va bene. Ma montiamo una piscina in regia. Ok. Perfetto, dicevamo. Direi che per le norme di sicurezza è... Ma sì, la facciamo in piena sicurezza. Mi informo io sulle norme. E così farò. Ok. Antonella, dicevamo che... allora, la mostra si chiama Liberi, 80 dalla Liberazione. Ed è una mostra voluta, direi commissionata dall'ANPI, provinciale di Bologna. È in prosecuzione di un lavoro che avevo fatto per loro, per l'ANPI, in realtà un progetto che avevo presentato io nel 2016, di documentazione attraverso la pittura degli ultimi partigiani ancora in vita. Nel 2024 sono stata ricontattata dalla presidentessa Anna Cocchi, che mi ha chiesto di realizzare qualcosa ad hoc per gli 80 anni della Liberazione. E così è nata l'idea, insomma ho strutturato un progetto, avevo lavorato precedentemente fotografando, intervistando, conoscendo i partigiani ancora in vita. In questo caso di partigiani ancora in vita non ce ne sono pochissimi, comunque li avevo già tutti ritratti, e la caratteristica di questo progetto qui è che attinge agli archivi fotografici della città, perciò c'è stata una restituzione attraverso la pittura delle immagini d'archivio. Importante è stato il contributo ovviamente dell'Istituto Parri e poi di tutta una serie di, io lo dico, è un lavoro corale, perciò insomma hanno contribuito in tanti, le famiglie, una parte della la curia, perché abbiamo trattato un soggetto insomma che è Don Giovanni Fornasini, che è insomma il parroco di Montesole, perciò insomma è stato un lavoro complesso anche di recupero delle immagini da cui poi sono nati i quadri. Le immagini di allora, io non so perché la mostra, forse non l'abbiamo detto, no sì l'abbiamo detto, ha fatto la battuta Stefano, prima era ospitata in comune, quindi io l'ho vista in quell'occasione, non sono ancora andata a vederla all'assemblea legislativa. Sono delle tele di che dimensioni? 80-120. Le fotografie di partenza invece? Ah, erano minuscole, cioè intanto io non ho avuto la possibilità di averle in mano, perciò mi sono arrivate tutte in formato digitale. Anche con il Parri abbiamo lavorato così, loro mi hanno messo a disposizione tutto il loro archivio che è consultabile da tutti, e poi nel momento in cui ho scelto delle immagini mi sono arrivate le alte risoluzioni, però abbiamo lavorato tutto così, con delle, a volte anche con delle immagini di una... il nostro vicino questo... di casa. Ah, ok. No, cioè, questo no, perché una, siccome fa molto caro, voglio dirlo ai nostri di ascoltatori, soprattutto quelli che ci stanno ascoltando il 9 giugno, perché se oggi è il 9 giugno vuol dire che questa è una replica, mentre invece se oggi è il 2 giugno vuol dire che siamo in diretta. Così. Perché il 2 giugno e il 9 giugno mandiamo la replica del 2. Mandiamo la replica, oh, sì, ho pensato oppure, di fare oppure questa forse cosa. Forse il 9 mandiamo la, o è oggi che mandiamo la replica del 9. Oggi stiamo mandando la replica del 9. Esatto. Perché è più coerente con il siamo abbastanza bravi. Il 9 giugno ascolterete noi che decidiamo se questa è una replica. Questa è una replica oppure esatto. No. Esatto. Fatto sta che comunque lo starnuto era del 2 giugno, nel caso che caso qualcuno, esatto. O se ci fosse un quiz magari infine, non, che non si sa mai. Per vedere se gli ascoltatori sono attenti, magari. Esatto. Ci raccontavi quindi da fotografie che hai ricevuto in digitale e sì, hai realizzato le tele. Ho realizzato le tele, alcune erano anche di una qualità pessima, insomma, perché comunque foto che... Le tue tele erano di una qualità pessima. Le mie erano di una qualità veramente eccelsa, orrenda. Lo possiamo dire che l'Antonella Cinelli è la pittrice figurativa più di punta di tutta l'Emilia Romagna, se non di tutto il nord Italia. Cioè, sicuramente. Grazie. No, figurati. Adesso con questa ti sei inimicato tutti i pittori figurativi del nord Italia. A partire da Leonardo Santoli, che salutiamo. Ecco. Ciao Leonardo. Vabbè, Leonardo è un incassatore, per sì, cui perdonerà. È una vita che incassa. Esatto. Una vita da incassatore, visto che vi ho interrotto e pare che non state continuando la conversazione, vi volevo dire, vi volevo far ascoltare un pezzo, visto che così interrompiamo, che è uscito da poco, perché si chiama, è un album di esordio dei Pale Blue Dot, che si chiama Heart, e dunque Nicola di Peyote Press ci ha spedito questa For the Beauty of Miranda che stiamo per andare ad ascoltare, e eccola qua. Coming siccome stiamo parlando di Crocs con Infradito, stiamo parlando di scarpe, no, mi sembrava interessante, non possiamo menzionare marche, alzare, no, Crocs, Birkenstock, non si menziona niente. No, volevo dirvi questa cosa: se vi è piaciuto questo pezzo dei Pale Blue Dot, che sabato prossimo, che sarebbe non mi ricordo, tipo il 7 giugno, li trovate al Gallery 16, ma adesso poi lo diciamo anche, anche quando menzioni. Ci sono le menzioni. Mi è scappato lo sbadiglio. Continuare a noi, come allora, è passato, dicevo. Ti avevo silenziato. Ci ridai la parola? O? Sì, no, infatti sì, quello volevo dire, che possiamo continuare. Possiamo continuare a parlare, perché abbiamo detto solo l'1% di tutto quello che c'è da dire su questa mostra e sul lavoro di Antonella Cinelli e anche su Sandro Malossini, che ha scritto un testo critico, giusto? E che testo critico? Ma io sono molto contento, a differenza del solito. A differenza della mostra di Pasquini, che no, per esempio, ma come, è stato un successone inaspettato. No, certo, no, ma a differenza di tante volte che quando scrivo non sono mai perfettamente soddisfatto di... Ah, di te stesso, sì, non della mostra, ok. Delle cose che vorrei dire sono tante e non sempre non ci si riesce. Invece sono riuscito, secondo me, nel testo di Antonella di fare una sintesi molto chiara, precisa, di quello che è stata la mia lettura della mostra. Innanzitutto, quando lei me ne ha parlato, devo dire che sono rimasto entusiasta del suo progetto, perché avevo già curato delle mostre su queste tematiche, sulla resistenza, sui partigiani, così, e tutta la letteratura artistica dal primo dopoguerra che se ne è occupata ha sempre trattato il tema con delle impiccagioni, delle fucilazioni, cioè col dramma, con la sofferenza della guerra, della lotta partigiana. Antonella ha fatto una scelta totalmente diversa, cioè ha scelto quelle immagini dove i giovani partigiani non sono nel momento della sofferenza, della morte, ma della spensieratezza, del momento in cui conviviale sono assieme a dei coetanei per la strada, in giro, in bicicletta, dove tutto il dramma della guerra si deve ancora sentire, non si vede, però si percepisce, perché questa scelta innanzitutto cromatica che ha fatto Antonella utilizzando un solo colore, che è questo azzurro che ricorda il cielo che quando noi preghiamo, chi prega magari guarda il cielo come speranza, come futuro. Che blu è esattamente tecnicamente? Allora, ho utilizzato un blu di Prussia, perciò con una componente di nero all'interno. Sì, perché non è un blu, adesso tu lo descrivi come il cielo, però è un blu però rimanda al cielo. È il blu di Prussia. E questi testi scritti con in oro, che sono dei frammenti dei 12 articoli della Costituzione italiana, rimandano alla preziosità, perché l'oro è la cosa più preziosa che possiamo vedere. Rimandano anche, secondo me, questo pensiero che ho fatto io quando sono andata a vedere la mostra, alla fragilità di quello che abbiamo conquistato, certo, e come facilmente si possa perdere, perché ci sono ovviamente degli enunciati molto importanti a fondamento della nostra vita democratica. Che però, e ci sono un sacco di articoli della Costituzione che non vengono rispettati, sì, assolutamente, è ancora disattesa, insomma, disatteso il progetto della Costituzione. Spesso proprio lo dicono i partigiani, quei pochi che sono rimasti, lo dicono, insomma, ancora non si riesce a compiere completamente il progetto della Costituzione. E infatti la scelta dell'oro, che non è stata un'emulazione dell'oro, ma ha utilizzato una polvere d'ottone, perciò rifrange la luce, queste scritte attraversano i quadri, le tele, e rifrange la luce, perciò dipende da come noi ci poniamo nell'osservarli, e scompaiono in alcuni momenti, e l'idea era proprio quella lì che tu hai sottolineato, il fatto che sia qualcosa di fragile, che scompare alla visione. Esatto, speriamo di riuscire a mantenere saldi, insomma, ovviamente questa operazione va nella direzione di ricordare, no? Che a volte certo. è anche un po' un problema di memoria, non solo le braccine corte, come dice Stefano Pasquini, no, le maniche corte, ma no, infatti, a volte anche la memoria. È importante anche il fatto che non siano tutti comunisti, no? Perché questa ecco. cosa di Bella Ciao, canzone comunista, eccetera, eccetera, no? Cioè il fatto che la resistenza venga ricordata come una faccenda di sinistra è assurdo, perché è inesatto, come tutti, assolutamente. Tutti ben sappiamo, non è stato assolutamente così. Assolutamente, infatti cioè è un progetto che è nato da una necessità di Lampi di comunicare una cosa ben precisa, perciò io ho dato un'idea, ma poi è nata una discussione, sono nate una serie di incontri in cui abbiamo messo sul tavolo diverse ipotesi. La loro necessità, e io ho cercato di farmi interprete della loro necessità, era quella di raccontare appunto questa liberazione che non aveva un colore solo, ma era variegato, perché insomma la lotta di liberazione è andata dalla sinistra alla destra, insomma, non... E perciò ogni soggetto ritratto racconta un pezzo della realtà di quel periodo lì. E come diceva... Scusa, avevo una curiosità da un attimo che stavate parlando. Lui ha parlato di scelta e mi chiedevo quante fossero i quadri che hai fatto, quanti siano i quadri che 12, come 12, sono okay. 12 i primi articoli della Costituzione, okay. che sono gli articoli che non possono essere modificati. E quindi il numero era preimpostato, quindi 12 sì. doveva essere, ok? E le fotografie che hai ricevuto erano sempre 12 o hai dovuto scegliere? No, io ne ho avuto, cioè ne ho fatto okay. una scelta ampia, anzi okay. in alcuni momenti avevo fatto delle scelte ma non mi convincevano, ho iniziato delle tele che poi ho messo da parte. Ah, raccontaci qualcosa per delle esempio tele. Fornasini, Don Giovanni Fornasini, che insomma è stato il sacerdote di Montesole, perciò ha avuto è stata una figura importantissima per quel territorio che, come sappiamo, poi ha subito la strage. È stata una figura che si è opposta apertamente ai tedeschi, ai fascisti, ai nazisti, ed è morto, insomma, il suo cadavere è stato trovato decapitato dopo l'inverno. Avevo iniziato una tela di Fornasini che proveniva da un'immagine anche molto bella, lui con un amico. Poi descrivo un attimo le opere, perché le opere partono da una sorta di nebbia azzurrina in cui le figure sono appena accennate, e poi ci sono dei particolari che mettono in risalto la figura che io volevo raccontare. In realtà c'è stata un'operazione di cancellazione, proprio perché volevo che anche il processo di lavoro tenesse conto di questa cancellazione che noi stiamo operando rispetto alla guerra di liberazione. Perciò io dipingevo, poi gettavo dopo un giorno dell'acqua ragia sulle tele e cancellavo, perciò rimanevano delle ombre. Dalle ombre io facevo emergere la figura, il soggetto. E stavo facendo un lavoro di questo tipo sulla tela di Fornasini e non mi quadrava. Allora ho chiamato Forte Clo, che è una delle persone che all'interno dell'Ampi mi ha aiutato, adesso poi racconterò chi mi ha aiutato, perché sono stati tanti. Forte mi ha aiutato proprio a mettere in luce dei personaggi, poi lui conosce tutto, è la Bibbia dei partigiani a Bologna. Forte Clo è magari per gli ascoltatori fa parte dell'Ampi. Fa parte dell'Ampi. Memoria storica in quanto custode della memoria storica, in quanto partigiano sopravvissuto. No, non è un partigiano, non è sopravvissuto, è uno studioso, un conoscitore, insomma, è la Bibbia vivente della guerra di liberazione sul territorio. E ho chiamato Forte e gli ho chiesto: senti, mi devi trovare altre immagini di Don Giovanni Fornasini, e lui ha sguinzagliato le sue conoscenze ed è arrivato a questo Don Angelo che ha tutto su Don Giovanni Fornasini, e mi sono arrivate delle foto. Mi è arrivata questa foto bellissima di Fornasini sul sagrato della chiesa, penso di Marzabotto, di Montesole, in mezzo a una folla. Ho detto è lui, cioè devo fare questo lavoro qui. Dopo ho saputo che gran parte di quella folla e di quei personaggi all'interno della folla sono morti nella strage di Marzabotto, e mi sono detta evidentemente voleva in qualche quella maniera foto voleva arrivare, voleva arrivare in questo modo, lui sì. voleva forse essere ricordato tra i suoi sì. e ogni storia, cioè ogni... ho dialogato molto con un'immagine. Quindi questa nasce da due foto differenti, cioè sì, la prima stesura sì. è stata poi coperta dall'altra. Sì, no, è stata proprio staccata dal telaio, arrotolata e messa da parte, sì. Quindi è ancora lì, come sì, prova lì. D'artista. Sì. sì, chissà, adesso magari andremo a curiosare, un giorno vedremo. Ma io sono anche molto curiosa di tutto il processo, perché per chi non conosce la pittura di Antonella è molto proprio molto meticolosa anche nella sua esecuzione, quasi fotografica. Sì, insomma si percepisce che c'è dietro tanto lavoro anche in termini di tempo. Quanto tempo hai impiegato per preparare questa mostra? È stata una corsa, perché mi è stato detto facciamo qualcosa all'inizio di settembre. Caspita. Perciò poi facciamo qualcosa, io ho dovuto avere il tempo di elaborare qualcosa. Perciò a fine ottobre ho presentato un'idea di Massima che ha subito una serie di processi di approvazione, perché l'AMPI decide attraverso un consiglio direttivo. E mi è stato dato l'ok, e da lì in poi è iniziata la costruzione dell'idea dei personaggi che dovevamo ritrarre. Perciò poi c'è stata la ricerca storica. In realtà ho avuto pochissimo tempo, perché ho fatto in 4-5 mesi, ma lavorando veramente anche la notte. Immagino. Perché. Cioè lavorando anche la notte. Sì. Poi ecco, come diceva Stefano, io ho una pittura molto fotografica, perciò la mia indole è quella, ma sapevo che non andava bene per questo progetto, perciò ho dovuto trovare questo escamotage della cancellazione, un po' perché mi interessava il processo della cancellazione, un po' perché era più forte di me, cioè io non riuscivo a non essere meticolosa. Vi dobbiamo interrompere per la pubblicità delle 20:30. Facciamolo. Intanto qua abbiamo iniziato a parlare di mangiare, naturalmente. No, certo. Ci si distrae un attimo e si cade subito sul materiale. Allora, per risollevarci, Sandro, raccontaci qualcosa dell'aspetto, diciamo, curatoriale. Sì. No, la cosa secondo me interessante molto di questa mostra in assemblea legislativa è che siamo riusciti a produrre un catalogo che accompagna secondo me in maniera molto significativa la mostra, perché oltre alla riproduzione di tutte le 12 opere c'è una parte didascalica dove vengono riportati i 12 articoli della Costituzione in maniera integrale. Perché brevi noti, ovviamente hai preso, no, lo dico per completare la descrizione delle quadro, opere, certo. Nel quadro c'è una parte, certo, magari quella parte. Più sì, sì. Diciamo il nucleo, ecco, però E poi ci sono delle schede esplicative relative ai personaggi che Antonella ha ripreso, ha riprodotto. E posso dove... dire chi ha curato le schede, ci tengo. Certo. Forte Clò e Enrico Verdolini. E poi nella seconda parte del catalogo abbiamo invece riprodotto tutti quelli che sono stati gli studi per realizzare queste opere, cioè gli acquarelli oppure le tele di piccolo formato, anche quelle che poi non sono diventate le 12 opere. Quindi anche quella arrotolata? No, quella proprio non è. No. però direi che comunque diventerà un pezzo rarissimo che raggiungerà quote stellari grazie anche a noi, quindi naturalmente vogliamo la percentuale, certo, per questi assolutamente. Il gronchi rosa della Cinelli. Esatto, il gronchi rosa della Cinelli. E comunque no, è secondo me molto significativo proprio tutto il percorso anche che ha accompagnato la creazione di questi lavori, perché negli acquarelli c'è anche la freschezza che magari nella pittura a olio è un po' più dura, ecco. Certo. Anche se Antonella comunque ha un bellissimo segno nella pittura d'olio, io ho avuto occasioni di curare alcune mostre negli ultimi tempi sue con altre tematiche chiaramente, e devo dire che la sua pittura rimane sempre una pittura fresca anche quando si avvicina a una pittura di tipo iperrealista, che io non leggo come pittura iperrealista assolutamente, di questo come la legge? Ma io tutto il lavoro di Antonella l'ho sempre considerato un lavoro di tipo concettuale. E mi ricordo che all'inizio facevo un esempio, un paragone con Carlo Maria Mariani, che è stato giusto l'artista per antonomasia degli anacronisti, e che lui ha sempre detto: io sono un artista concettuale che uso la pittura figurativa per esprimermi, e credo che la ricerca di Antonella sia proprio di questo tipo. Sì, concettuale figurativo, bene, allora sì. Non è un termine che abbiamo inventato, cioè hai detto c'è un precedente, però certo, esiste certo, sì. Il concettuale figurativo. Sì. Certo. D'altra parte si fa con tutto l'arte contemporanea, perché non farla con certo la pittura figurativa? Assolutamente. Come dice Angela Vettese. Certo. Si fa con tutto, quindi perché no? E dunque intanto vi interrompiamo per fare con tutto questa cosa qua. Che non parte, che forse non parte. Volevi fare l'angolo della menzione. Ah, ecco. L'angolo so della menzione. Perché te ne sei andata? Tu sei stanca? Perché te ne sei andata? Allora, dove siamo? Martedì 3 giugno. Cominciate voi? 17:30. Vai, cominciate. Vai Cinzia, qua, abbiamo qua lo stampatone. Lo stampatone. Martedì 3 giugno alle ore 17:30 il Mambo si fa luogo di incontro con il collezionismo privato tra opere e storia, per celebrare l'arte come spazio di relazione e condivisione con l'incontro Collezioni in Collezione. Un ciclo di appuntamenti ad ingresso libero dedicato all'incontro tra la dimensione pubblica del museo e il mondo delle collezioni private. Il progetto inaugura con la collezione di Anna Grazia Stefani e Francesco Tampieri, appassionati collezionisti italiani. Il primo appuntamento è un dialogo che vedrà coinvolti Lorenzo Balbi, direttore del museo, Anna Grazia Stefani e Francesco Tampieri e Francesco Carone, artista, in sala conferenze al Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna. Giovedì 5 giugno alle ore 17, incontro dal titolo Il tesoro di Magnus, il racconto dell'eterico viandante. Eterico? Così pare, ho fatto copia e incolla, non l'ho neanche bene, letto. La prendiamo così, dopo magari controlliamo, ed è probabilmente una carenza nostra. E quindi ricomincio, il racconto dell'eterico viandante, omaggio a Magnus, maestro del fumetto italiano. Roberto Raviola, meglio conosciuto come Magnus, è tuttora figura centrale nel panorama del fumetto italiano. All'incontro parteciperanno Enrico Fornaro, direttore, Marco Dabba, presidente del Palazzo del Fumetto, Michele Masini e Luca Baldazzi, curatori dell'esposizione di Pordenone, Otto Gabo e Onofro Catacchio, autori e docenti di arte del fumetto, in Aula Magna, Accademia di Belle Arti di Bologna, in via Belle Arti 54. E rimaniamo sempre giovedì 5 giugno, sempre alle ore 18, alla Biblioteca del Mambo. In particolare Museo Morandi ospita la presentazione del libro Annuario senza sosta, volume a tematico zero, studio permanente del 2025, a cura di Giulio Lacchini, progetto grafico di Giancarlo Norese. In dialogo con Giulio Lacchini e Giancarlo Norese c'è Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, e Manuela Gandini, critica d'arte contemporanea, curatrice e docente alla NABA di Milano. Questa è la Biblioteca del Mambo in via Don Minzoni 14 Bologna. Siccome appunto la settimana prossima non ci siamo, facciamo una menzione anche di tutta la settimana dopo, per cui sabato 7 giugno e domenica 8 giugno dalle 15 simposio intersezionale e mutualista d'estate, carcere e giustizia, organizzato dal da Comuni Mappe e dal Circolo Anarchico Bernieri. Durante le due giornate c'è un'installazione di spazi coatti e la porta con la voce di Cinzia Russo. Tutto questo sono due giorni interi al Centro Sociale della Pace, e naturalmente su Coxo Spaziale trovate il programma completo su coxospaziale.blogspot.com, come al solito. Sabato 7 giugno dalle ore 18.30 seratona al Gallery 16 con Michela che legge le carte, alle 19 aperitivo con Emanuele Di Tommaso che presenta il suo libro L'Evocatore e altri racconti, alle 21.30 i Pale Blue Dot dal vivo di cui abbiamo sentito prima il pezzo For the Beauty of Miranda, e a seguire i Cold Wave. Tutto questo al Gallery 16 in via Nazario Esauro 16 a Bologna. Ma domenica 8 e lunedì 9 andate a votare. Ah, beh, certo, questo è importantissimo. Sì, perché poi si passa direttamente a lunedì 9 giugno, ma andate a votare. Intanto nel frattempo c'è stato il referendum. Punto esclamativo stronzi. Mi raccomando, che poi sappiamo che oggi stiamo mandando in onda la replica che abbiamo registrato il 9 giugno, perché Elisa Mignemi va giù a votare. Esatto. Vado su, io non ci sono, devo votare. Quindi è importante. Mentre invece se state ascoltando il 9 giugno, sappiate che oggi 9 giugno alle 18.30, ovvero un'ora e mezza fa, presso il Must Auditorium si terrà la presentazione del catalogo Do Desiderio, un momento speciale a coronamento del successo dell'ottava edizione dell'iniziativa di questa associazione, appunto, che si chiama Do. Intervengono naturalmente Nino Migliori, che è il migliore appunto, ed è anche l'autore delle foto nel catalogo, Roberto Grandi, Lorenzo Bardi, e tanti altri. Tutto questo alla prenotazione obbligatoria via email a info@do.it. Tutto questo al Must di via Speranza 42 a Bologna. E Pasquini, mi hai tolto la parola per lasciarmi proprio questa menzione, esatto. Perché martedì 10 giugno, cioè domani oppure la settimana prossima, il giorno dopo di oggi, però fra una settimana, esatto. Quindi fra 8 giorni, a seconda di quando ascoltate la puntata. Un loop temporale. Che comunque martedì 10 giugno, per stare sul preciso, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, inaugura la mostra a Scientific Encounter, The Complex, esplora le intersezioni tra patrimonio culturale e scientifico, concentrandosi sul concetto di complesso, un termine coniato da Luigi Ferdinando Marsili, accostando opere di artisti internazionalmente riconosciuti a reperti delle collezioni museali. La mostra reinterpreta il rapporto storico tra arte e scienza, e qua c'è tutta una lunga lista di nomi, ma io anticipo subito, anche se dopo lo ridiciamo alla fine, che la mostra si tiene a Palazzo Poggi, perché poi magari gli ascoltatori nel sentire la lista di nomi si distraggono. Palazzo Poggi. La lista di nomi possiamo anche non fare. E non la diciamo, allora. Diciamo che c'è solo Norese. Diciamo che la mostra è a cura di Gino Giannuzzi e Wolfgang Weileder, e al Museo di Palazzo Poggi in via Zamboni 33 a Bologna. Dall'11 al 15 giugno torna a Grisù il Festival di Scritture Contemporanee a cura dello Spazio Letterario tra perché hai scritto, no, c'è un altro refuso, questo sicuramente. A Porta Pratello. Il programma è ricchissimo e include anche un incontro con Fuori Sedia Podcast e Vuming 2. Tutto il programma a lospazioletterario.it. Sabato 14 giugno dalle 17 alle 21 inaugura la mostra Prince a cura di Marta Orsola Sironi. Per l'occasione saranno esposte le opere di 9 artiste e artisti internazionali emergenti. Auguri. E qui, e qui abbiamo c'è una bella lista lunghissima. Agnieszka Mastarels, Alexei Izmailov. Amba Sayal Bennett. Dionisi Sarai, la conosciamo. Anna Morgan, Odun Clerget, Luca Rubegni, Paola Santomè e T-Lock, che spaziano tra pittura, scultura e videoarte, creando un percorso che riflette sulle zone di margine, sui luoghi di transizione, sulla tensione tra identità individuale e memoria collettiva. Questo al Labs Contemporary Art, via Santo Stefano 38 a Bologna. E per ultimo, sabato 14 giugno alle 17:30 inaugura Suono Cavai, mostra personale di Mafalda Francesca Perri, che apre una serie di mostre a Darkwood Bologna, che è uno spazio dove si fanno tatuaggi. La mostra è su fino al 21 giugno e questa è a Darkwood in via Lame 2/V come visitors a Bologna. Votate l'8 e 9 giugno se volete che il vostro evento venga letto nella rubrica gli eventi letti peggio, li mandate a Coxo Spaziale e noi li storpieremo tutti coi refusi senza neanche impegnarci. Ah, oggi Marco Roma non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, però abbiamo, prima volevo farvi sentire due secondi di questa canzone che è stata fatta da degli Erasmus per Pizza Casa, sì, per onorare Pizza Casa che vendeva le margherite a 2,50 euro. Esiste ancora, ma la sua anima si è spenta. Lo so. Volevo ringraziare Angelo Fanni che mi ha segnalato questo pezzo. Esatto. La possiamo tenere in sottofondo intanto. Facciamo così anche perché noi quanti minuti abbiamo? 5 minuti. No, infatti, perché anzi, 4 minuti e 30 secondi. Però se la lasciamo in sottofondo la abbassiamo un pelo perché la sto abbassando. Non sembra. Ascoltiamo qualche estratto intanto. Facciamo così. Ok, adesso possiamo. Incredibile. Però il riff ve lo volevo far sentire, solo 2,50. Allora usiamo gli ultimi 5 minuti per raccontare magari qualche cosa dei progetti futuri e eventualmente anche quelli dei progetti passati, anche perché noi abbiamo questa vocazione spazio-temporale, no? Che caratterizza un po' il programma, il fil rouge perlomeno del 2025. Beh, direi che puoi intanto parlare della tua prossima mostra, sì, che inaugura per qualche giorno a Siena. Sì, io inauguro una mostra a Siena alla Galleria Violetti, Arte Contemporanea. E in questa mostra porterò tutti i lavori preparatori e i bozzetti di Liberi. E poi c'è un'estensione poetica. Non vorrei essere ripetitiva, ma compreso quello arrotolato. No, il gronchi rosa. Lì, è lì che ti aspetta. Quello sarà da attendere qua in studio da voi. Fantastico. Lo devo tirare fuori adesso. Non so che fine ha fatto, però. Non è andato a buon fine, ecco, okay. Quel lavoro lì. E perciò sì, inauguro il 5, giovedì 5 a Siena, e c'è un'estensione, come dire, poetica del lavoro giocata su, insomma, il tema è l'abbraccio, perciò l'abbraccio dopo la guerra, riconciliazione, insomma, un augurio anche per quel nostro periodo. Sì, che ecco. Diciamo non è proprio dei più pacifici, no. Che abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni, dico. Parlando un po' della nostra anagrafica mia di Pasquini. Guardami negli occhi, pensa che sono nato nel tuo cuore, nella pancia del tuo animo. Ricordati di me. Da Marco Roma, buongiorno! Senti come sta bene anche Pizza Casa di sottofondo. No, è perfetto. Sì, perfetto Marco Roma, sempre un grande. Che dire, dobbiamo ringraziarvi tutti e mandarvi a casa presto oggi perché... In 2 minuti. Perché per la puntata di oggi, ricorda, quella che è registrata la replica del 2 giugno ha già previsto il promemoria del referendum per la settimana prossima. E dunque, come al solito, cosa facciamo? Beh, innanzitutto ringraziamo tantissimo Sandro Malossini e Antonella Cinelli che sono venuti fino a qua a raccontarci la loro mostra. Questo grazie è sempre il vicino, quello questo che è stato vicino, sì, esatto, ma non preoccupiamoci. Ma non quello che ha anche l'aereo, quello che ha il parcheggio degli aerei, un giardino. E poi, come al solito, naturalmente, vi diciamo di non cambiare canale perché fra un po' arrivano anche i nostri amici di Panta 80. Eccoli, sono qua, sono appena arrivati, sono alle porte proprio come si sente. Io ero Chiara Pergola, come al solito. Io ero Lisa Mignemi. Io Stefano Pasquini. Io sono Cinzia, ma non so il tuo cognome. No, sempre corda. Sempre corda. Un nome che non si scorda. E come al solito vi salutiamo con le parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che come al solito è sempre vomito. Non potrebbe andare altrimenti. D'altronde, cioè, per restare. Thank you.